5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, Radio Rizakis friends. Benvenuti a tutti e tutte ad una nuova puntata di I Speak English. State a capire? Imparando con noi l'inglese. And learning Italian, popular way to say. Avrete grandi vantaggi nella vita, perché comunicare è importante. Farsi capire lo è ancor di più. A Radio Rizakis sentiment, molto British. Infatti su I Speak English si ascolta solo musica British. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Today way to say. Pettinare le bambole. Pettinare le bambole. Comb the dolls. Comb the dolls. Chiudiamo una trilogia importante. Abbiamo imparato a dire pisciare dalle ginocchia. To piss from the knees. To pee from the knees. Poi abbiamo imparato a asciugare gli scogli con un fono. Dry the sea rocks with a hair dryer. Oggi chiudiamo con un detto dal senso simile, a testimoniare che non stiamo qui a fare cose inutili. Ammesso e non concesso che pettinare una bambola sia davvero inutile.